Hendrix, Santana, Clapton. Beh, loro sono maestri della chitarra. Amici, fidatevi di noi. Voi non diventerete mai come loro, o meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare la chitarra con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare chitarristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì, sì, non perdete l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Hai varcato la linea! Eh? Spiacente, Smokey, hai varcato la linea, non vale. Cazzate, segna 8, Drugo. No, scusa. Segna 0, niente punti. Balle, Walter, dammi un 8, Drugo. Questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole. Ehi, Walter, andiamo, non fare così, quello è Smokey, gli è scivolato un po' il piede, è solo una partita. È una partita di torneo che determina chi passerà il prossimo turno, o mi sbaglio? Sì, però io non ho... O mi sbaglio? Sì, ma non ho passato la linea. Dammi il pennarello, mi segno 8 punti. Smokey, amico mio, stai per entrare in una valle di lacrime. Walter, mettila via. Se ti segni un 8, entri in una valle di lacrime. Ma io... La valle di lacrime. Drugo, di qualcosa al tuo compagno. Allora il mondo è impazzito! Sono il solo da queste parti che abbia rispetto per le regole, segna 0! Stanno chiamando gli sbirri, metti via il ferro. Smokey, segna 0! Walter, metti via quel ferro. Walter... Tu credi che io faccia per scherzo, segna 0! Va bene, hai visto, ho scritto 0. Sei contento, stronzo sciroccato? È una partita di torneo. Forse non tutti sanno che la canzone di Jimi Hendrix, Purple Haze, originariamente avrebbe dovuto avere un altro titolo. Questo vi chiedevamo nel test attitudinale di quest'oggi e vi proponevamo anche tre ipotesi possibili. Forse si sarebbe dovuta chiamare Purple Haze, Jesus Saves? Io credo proprio di sì. E allora, ci giochiamo subito l'asso. Esatto, il titolo completo era questo: Purple Haze, Jesus Saves. Quindi tranquillizziamo, non si sarebbe mai dovuta chiamare Purple Haze Abruzzese e nemmeno Purple Haze and the Magic Grass. Una canzone veramente famosa di Jimi Hendrix. Pensate che nel 2005 il mensile Q l'ha messa al primo posto dei primi 100 miglior pezzi di chitarra in un brano rock. Inoltre, e non solo. E non solo, e non solo. Infatti c'è un equivoco legato a questa canzone, perché la prima frase che dice "Now excuse me while I kiss the sky", certo, è spesso fraintesa con "Now excuse me", adesso scusami, sì, mentre, perdonami, mentre sto baciando this guy al posto del cielo. Quindi questo ragazzo al posto del cielo. Tra l'altro anche Jimi Hendrix giocò spesso e volentieri, sì, con questo equivoco, cantando dal vivo, cambiando sky e guy per giocare un po' su questo equivoco. Sì, lo si sente chiaramente in Voodoo Child, nella Jimi Hendrix Collection. Come fa a saperlo, maestro? Ma l'ho letto qua nell'appunto della redazione. Chiudiamo segnalando che lo stordimento viola, nel quale questo potrebbe essere la traduzione di Purple Haze, è un riferimento alla droga, ma non come spesso e volentieri si pensa all'LSD. Il buon Jimi Hendrix in persona disse che questa canzone era ispirata in qualche modo alla marijuana. Viva Jimi Hendrix e viva Purple Haze, Jesus Saves! Tra l'altro questo Purple Haze, questa nebbia porporina, è più legata al fumo, no? Sì. Al fumo di certe sostanze, più piuttosto che all'allucinogeno puro. Maestro, ce ne spariamo una? Beh, sì, di sigarette normali, naturalmente. Nazionali senza filtro? Plays Jesus Saves, Jimi Hendrix e la sua 6 corde. 8 e 36 minuti primi, ufficialmente entriamo nel rush finale di pane, burro e rock and roll. Restate con noi, ne sentirete delle belle fino alle 9 di questo maledetto lunedì 26 di novembre. Redazione, rintracciatemi un ennesimo provinante per diventare musicista rock con la bocca. E poi c'è anche quello scoop da fare, eh? Quello non è male. Lo famo oggi? Lo famo. Gustiamoci Losing My Religion e poi vediamo che si combina a pane, burro e rock and roll. Losing My Religion, il REM nella diretta di PBR. Allora, devo annunciare un nuovo amico in linea con Rock FM. Non è ancora il provinante per diventare musicista rock con la bocca, lui lo sentiremo poi nel prossimo intervento. La storia, l'introduzione di questa telefonata è un po' complicata. Proverò a spiegarvi la genesi del perché. Andremo a parlare con questo amico, che è sintonizzato sulla frequenza milanese. Il tutto ha inizio quando un patentato, il patentato 110, ci contatta per far sapere alla nostra redazione: io vorrei convertire qualcuno delle persone che conosco che non sentono Rock FM a Rock FM, e questa ci sembrava una buona idea. Dopodiché il patentato 110 ci ha segnalato questo suo amico. Si chiama Nicolò e vediamo di spiegare con lui che cosa andremo a combinare. Benvenuto a Rock FM, Nicolò, tutto bene? Ciao a tutti, benissimo. Allora, sono molto emozionato. No, stai tranquillo, Nicolò, sentiti in famiglia. Innanzitutto facciamo sapere che tu solitamente ascolti RTL. Sì. Ma attento, Nicolò, non te ne faremo una colpa. No, perché noi abbiamo scoperto una cosa molto più inquietante nella tua infanzia. Sì. Allora, Nicolò, in questo momento ha 43 anni, o meglio, li compirà la notte di Capodanno. Com'è fare gli anni a Capodanno? È bello. Non è quella storia che ti fanno poi i regali un po' meno perché già ti festeggiavi Capodanno? Ah, beh, quello sì. Li fanno a Natale perché poi c'è il compleanno. Ma questo, attenzione, non è l'unico trauma infantile di Nicolò, che tra l'altro ascolta RTL e che peggiora la situazione, questa te la dico. Nicolò, mi permetto di dirlo, ma chiudo l'argomento. Era il lontano 1970. Sì. Ti va di ricordarlo, Nicolò? Sì. Tranquillo, sfogati sì, con noi. Sì, no, ma è stato un bel momento. A parte tutto, è stato un bel momento. Nicolò decide di partecipare allo Zecchino d'Oro annata 70. Sì. Annata di ferro, tra l'altro. Chi aveva come quelli vinto? Che sono nati nel 65, sono abbastanza esatto. Tosti. Chi ha vinto nel 70? Guarda, non me lo ricordo. L'hai rimosso? No. Perché accade questo? Ovvero? Beh, che cantavo. Cosa cantavi di bello? Pronto? No, non ditemi che è saltata la linea, Aia, no, non ci posso credere. Nicolò, mi senti? Riprendiamo la telefonata al volo perché dobbiamo concludere l'intervento con Nicolò. Restate qui. Non me ne vorrà Alanis Morissette, ma abbiamo rintracciato nuovamente Nicolò, bentornato. Grazie. Allora, speriamo non cada di nuovo la linea. Ecco, di non andare via così. Velocissimamente, perché si fosse perso la prima parte della telefonata, Nicolò non ascolta Rock FM, Nicolò negli anni 70 ha partecipato allo Zecchino d'Oro, doveva cantare la canzone, come si chiamava? L'Agnellino. Ma attenzione, perché non gliel'hanno fatta cantare veramente, dico bene? Sì. E sei stato scelto come? Riserva. No, ragazzi, adesso mettetevi nei panni di Nicolò. Cosa vuol dire essere riserva? Da 40 anni che mi porto dietro questa... Cosa vuol dire essere la riserva dello Zecchino d'Oro? Che stai lì aspettando che il bambino si ammali? Bravo. No. Guarda che è cattiva da un bambino, cioè fare questa cosa a un bambino. Sì. Cioè, tu come l'hai vissuta ai tempi? Eh beh, no, abbastanza bene, perché sai, beh, essendo bambini poi ti distraggono in altre cose, quindi sì. non è stata una pace, insomma. Sì. Ma Nicolò, tantissimo i tortellini. Ma Nicolò è da 37 anni che vive con questo nodo alla gola, non ha potuto cantare l'agnellino in televisione, andava in Rai la trasmissione ovviamente. Sì. Allora guarda, io purtroppo non lavorando in Rai non posso darti questo piacere. Nel mio piccolo posso fartela fare a Rock FM, se te la ricordi ancora. Sì. Un pezzettino la ricordi? E allora ti annuncio come avrebbe fatto il mago Zurlì. Mago Zurlì. Sulle frequenze di Rock FM, Nicolò, 37 anni dopo, ha la possibilità di cantare l'agnellino. Prego Nicolò. Dall'ovile su in montagna è fuggito l'agnellino e la mamma poverina teme che il lupo lo possa mangiare. Basta, grazie. Ma chi era quell'altro bambino che hanno preso? Ma chi era? Non me lo ricordo. Ma sarà stato un raccomandato, Nicolò? Ma mi sa di sì, guarda. Un raccomandato dell'ultima ora, perché guarda. Ma dopo mi sono rifatto, eh. In che senso? In un'edizione del mio paese che non si chiamava lo zecchino d'oro, ma la mela d'oro. Ho vinto. Ma era. No, aspetta. Cioè, tu alla mela d'oro di che paese, perdonami? Beh, di Calatafimi. Di Calatafimi? Dove? In Sicilia. In Sicilia. Fantastico. Sì. Ma era un concorso cittadino? Sì. E tu hai presentato l'agnellino? E io ho presentato l'agnellino. Ti è? E hai vinto? Sì. Bravo, Nicolò! Grazie. No, ma l'agnellino, però, come funziona il meccanismo dello zecchino d'oro? Cioè, vi selezionano? Le selezioni a livello regionale. Quindi sono andato a Palermo, la sede Rai di Palermo e sostieni un. Beh, un provino. Certo, sì. Guarda, ecco, mi sa che anche lì le raccomandazioni. Esatto. Aia. Senti, però la canzone non la sceglievate voi, cioè veniva. Nicolò, guarda, vedi tu se continuare a ascoltare RTL o metterti ad ascoltare Rock FM, ricordati. Guarda, dopo questo ti giuro che vi ascolterò. Ricordati che Rock FM ti ha fatto cantare RTL fino a prova contraria, ad adesso non si è proprio filata il tuo caso di Striscia. No. Okay. Devo ringraziare, guarda, il mio collega amico Marco. Ha tentato 110. Sì. Sono sicuro che ti avrà sventolato la sua patente da vero rocker sotto il naso. Sì. Un saluto a te e anche a lui. A grazie. Presto, Nicolò, tieni duro. Grazie per l'opportunità. Grazie. Ciao. Ehi, Rogna, cos'è quella faccia preoccupata? Frigo, ho sentito due umani parlare tra loro e dicevano cose strane. Di cosa parlavano? Ma non so, di una cosa che mi pare si chiami rilievo topografico. Aia! Frigo, non è che ci vogliono sottoporre a nuovi esperimenti? Cazzo, Rogna! Rilievo topografico non promette niente di buono! Sono preoccupato, Frigo, sono preoccupato. Maledetti umani! La pagherete tutti, umani! La pagheranno cara! Joy D and the Starlighters. La chiudiamo danzereccia la puntata di quest'oggi con Shout. I wanna shout now. Che sfumina. Shout e andiamo. Eccola, la fine. Questa è la fine, amici. Allora, gli appuntamenti della settimana. Questo giovedì sera mi troverete in compagnia della Rock FM All Star Band al The Sad, in Viale Valtellina, qui a Milano, per la presentazione di un nuovo gioco della Gearbox, nella quale... No. Com'è, Garavelli, tu che ci capisci? Ma cos'è la Gearbox? Non te la sei inventato tu? Spiegamelo tu com'è. No, per varie console. Come funziona? No, non solo la Xbox. Toglimi da sto imbarazzo, Garavelli! Allora, ti ripeto, si chiama Guitar Hero 3, gioco con la chitarra, okay, con la colonna sonora tutta rock, sì, però va bene per la PlayStation 2, okay. Xbox, okay. La Gearbox è una... Quindi, scusa, ho sbagliato. La presentazione è del gioco Guitar Hero. Guitar Hero 3, esatto. Sigla. E l'ingresso è gratuito. Grazie, Garavelli. Prego! Mi hai tolto dall'impaccio. Comunque, sono lì con la Rock FM Star Band, ok? Oh, facciamola breve. Giovedì al The Sad. Pane, burro e rock and roll. Che pezzente che sono. La tua colazione rock. Un vero cialtrone al microfono. Pane, burro e rock and roll. Che ci volete? Però sono terribilmente rock, quindi va bene. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta rock. Devo chiedere scusa all'amico che era pronto per il provino per diventare musicista rock con la bocca. L'abbiamo scassato perché abbiamo perso una telefonata, l'abbiamo dovuta riprendere. Ti riprenderemo domani, fratello là fuori. Gravelli, grazie ancora per avermi tolto dall'imbarazzo. Figurati. Domani magari lo fai tu il lancio della serata. Va bene. Che è meglio, ti sento più preparato. Tu sei un gran smanettone di videogiochi, eh? Sì, abbastanza. Sì. Uh-huh. E come te la cavi col chitarriero? Male. Io sono pronto a sfidarti. Mio nipote mi batte in un attimino. Sì, allora sì. Sfido anche tuo nipote. Va bene, io sono più adatto a automobili, giochi. No, lì mi sa che mi straccio. Lì vado forte. Con e senza volante. Vi lascio con Garavelli fino a mezzogiorno. Va bene, ciao.